Dish24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera parliamo di un film che è stato presentato qualche settimana fa al Festival Internazionale del Film di Roma. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare l'attore protagonista e il regista, di parlare con loro ovviamente in inglese. È un film molto particolare perché il tema è molto triste, è la storia di un ragazzino che è malato di cancro, ma un ragazzino dalla fervida immaginazione, e quindi è un film non disperato, anzi pieno di speranza e anche di disegni, perché i sogni di questo ragazzo si trasformano in animazione, in cartoni animati. Scopriremo tra poco qualcosa di più di questo film, ma intanto parliamo con il protagonista. Molti di voi lo ricordano al cinema, intanto sentiamo la sua voce. Si chiama Thomas Brody Sangster. Well, I think that's actually the thing that makes it, well, attracted me to it, is that there's this very young, per 15-year-old, I mean, a lot younger than I am, who's confronted by death, and that's something that is really, people don't like to think about, you know, that's a really tough subject, especially to write a film about, and that's what attracted me to it, is because it's something very different, and almost, it's a risk taker, really, and a challenge for me, and I always look for something that will challenge me as an actor, otherwise it's just boring, you just play the same part again and again and again. Allora, questo ragazzino, che in realtà è nato nel 90, quindi ormai anche se ha una faccia da bambino ha già 21 anni, quasi 22, è inglese, lo avrete intuito dal suo accento, ed era un bambino delizioso in Love Actually, Nanny McPhee. Per quale ragione, Giulia, Thomas Brody Sangster ha deciso di interpretare questo Death of a Superhero? Ecco, c'ha un paio di idee, quindi inizia in un modo e poi ce lo spiega meglio. Dice questo nostro false friend, ma che in realtà è un vecchio amico, Actually, proprio come Love Actually, cioè l'amore in realtà, l'amore per davvero, quindi per davvero e non attualmente, quindi per davvero, actually, in realtà, the thing that makes it, poi cambia idea perché così avrebbe detto ciò che lo rende, poi gli dice no, in realtà vuole usare un'espressione un po' più forte, dice what attracted me to it, quindi ciò che mi ha attratto verso questo film, quello che mi è piaciuto, non tanto del film probabilmente ma della sceneggiatura, ed era il protagonista, appunto Marta ha detto, lui ha poco più di 20 anni, ma il protagonista is a lot younger than I am, cioè molto più giovane, cioè 5 anni, quindi questo è un 20enne che si sente già molto vecchio rispetto a un 15enne. Un 15enne, lo dicevamo, in una situazione un po' particolare, della quale insomma non è facile parlare, spesso i film non sono dedicati a questo argomento. E qui c'è un'altra sorta di false friend, o comunque è una locuzione che noi non traduciamo così, perché lui dice questo ragazzo di 15 anni who is confronted by death. È un argomento per cui è molto difficile scrivere una sceneggiatura, lui lo dice, sì, però al contempo è anche rischioso, ma una sfida. Sì, in una parola tough, no? Ce lo ricordiamo tutti questa parola. When the going gets tough, the tough get going, cioè quando le cose diventano difficili, le persone che sono tough, che sono dure, invece si danno una mossa, che è un'espressione tipicamente americana, quindi tough subject appunto è un soggetto duro, un tema duro, che poi anche qui forse è la visione di un 21enne, perché poi quando purtroppo noi cresciamo la morte, sì certo che la morte è un tema duro, però prima o poi la incontriamo tutti, quindi però forse a 20 anni per un attore già occuparsene, it's a challenge, e something that challenges me, insiste molto, e se non fosse così, se non trovasse queste che lui, per lui sono sfide, challenges, si annoierebbe, perché dovrebbe probabilmente ripetere il suo ruolo da teenager again and again and again, e si annoierebbe. Ma quando ha preso questa decisione, che cosa proprio l'ha smosso nel momento in cui ha letto questa sceneggiatura? Torniamo ancora con Thomas Brody Sangster. Got the part. I read the script a few times, and I wanted to make sure that in the end result you were watching a real person, and so I, because you got to believe it, so I concentrated more on making him who he is, like thinking about who he was before cancer, and thinking how he would fit in with the guys that are his friends, who he'd be out of the three of them, and making him a boy, a personality, a real character. And the cancer thing was like a separate thing that I just put on top afterwards. So if you've got the good basis of a character, the secondary thing is definitely the cancer. You just do that afterwards. I didn't want to concentrate on the cancer because otherwise it gets too heavy and melodramatic, and who wants to watch a film that's too too much. Beh, lo dice Thomas, effettivamente nessuno vuole vedere un film pesante, opprimente, insomma non è il film che vedrebbe lui che è così giovane, e infatti davvero è un film leggero per quanto il tema lo permetta, è stato molto apprezzato dai critici al Festival di Roma. Insomma, alla fine lui ci racconta: ho letto più volte questa sceneggiatura quando mi è capitata tra le mani, effettivamente è una decisione difficile da prendere. E qui abbiamo un altro nostro grande amico che è to get, e naturalmente qui è when I got the part. Get, naturalmente sappiamo che è un verbo irregolare, I get, got, gotten, o get, got anche a volte. Quindi quando ho avuto la parte, sappiamo che è uno dei verbi più versatili che esista, quindi to get the part, ottenere la parte. E poi abbiamo un altro nostro amico irregolare che è naturalmente il famoso to read, read, read, dopo che ho letto, I read the script. E qui vedete anche come lui usa, questo è forse in tutte le nazioni, insomma, i giovani tendono a semplificare i verbi, perché forse uno un po' più vecchio avrebbe detto I've read the script, per darci l'idea che insomma sì, l'ha letto un few times, ma l'ha letto nel corso del tempo. Lui usa il simple past perché insomma è giovane e semplifica le cose. E si è comportato anche da attore giovane, perché si è concentrato non sulle parti opprimenti del personaggio, ma lui dice no, io volevo concentrarmi sul ragazzo che è questo personaggio. Sì, qui forse appunto è una scelta anche magari dal punto di vista dell'interpretazione forse anche giusta, cioè lui dice I concentrated more on making him who he is before cancer, quindi c'è questo prima e dopo e questa cancer thing lui la chiama, e anche qui vediamo forse c'è questa tara dell'essere giovane, di non semplicemente di non voler vedere il cancro come una minaccia alla propria vita, quindi la chiama the cancer thing, quella roba lì del cancro, was like a separate thing, era un affare diverso, cioè io mi sono concentrato su quello che era stato prima, quindi the person he was before cancer. Eh sì, perché lui dice nessuno vuole vedere un film che sia, insomma, cerca di spiegare come non deve essere questo film e poi alla fine insomma lo semplifica, that is too much, too che much. Sia semplicemente troppo. Che poi forse anche qua forse chi è invece ha passato attraverso il cancro vede volentieri una descrizione, un'interpretazione, però ripetiamo, insomma, ha 21 anni e non vuol sentir parlare di certe cose, forse ha ragione, quindi who wants to watch a film that is too much, troppo, cioè troppo, troppo pesante, troppo triste, troppo melanconico, troppo melodramatic, dice anche a un certo punto. E dopo aver sentito parlare il protagonista, che è il nostro Thomas Brody Sangster, andiamo a sentire il regista, che è una persona simpatica e divertente, un regista irlandese nato a Dublino che si chiama Ian Fitzgibbon. Well, I'm glad you put it that way, because that's what it is exactly. It's on one level there's the live action world, which is a kind of objective reality, and then on another level there's the animation, but the animation really is only an expression of his imagination. So through the animation we come to understand how he feels about death and sex and loneliness and all those things that he doesn't really open up about too much in the live action world. In the animation he lets fly with it. So I think it's an interesting way to explore a character. Very unusual. That's what really excited me about the film, was the notion of how can we use this animation in a way to express things about the character and not just stop the film and have a cool bit of animation for entertainment. I really wanted it to be part of the story. Veramente recensioni tutte molto molto positive per questo Death of a Superhero, che speriamo prima o poi esca in Italia. Il regista Fitzgibbon sottolinea l'importanza di questo aspetto che noi abbiamo citato, quello delle animazioni. E dice proprio, sì, hai centrato, cioè I'm glad you put it that way, sono contento che tu la metta in questo modo, quindi è un'espressione che usiamo anche noi, perché that's what it is, esattamente quello che è, cioè ci sono questi due livelli, on one level the objective reality, quindi come immaginiamoci appunto la descrizione che può fare un film, perciò le immagini che ci descrivono appunto la realtà oggettiva, and on the other level animation, che in realtà it's an expression of his imagination, quindi è proprio due piani diversi anche visivi. E anche dal punto di vista cinematografico è una tecnica interessante, proprio perché il fatto che questo ragazzo, questo personaggio nel film disegni, fa sì che si possa esplorare attraverso il disegno una parte di questo personaggio. Ed è quella parte che lui terrebbe invece più nascosta, quindi things he doesn't open up too much about, quindi to open up about something è aprirsi, lasciarsi andare, confessare delle cose. Ecco, ci sono dei temi in cui nell'objective reality non lo fa, ma nella animation, nel mondo invece che poi lui disegna, he opens up, cioè si apre, si svela, è sincero su quello che prova, about sex, about feelings, about whatever. Lo abbiamo detto, è strano, strano ma vero, ma un film con un tema del genere non è un film pesante, come diceva l'attore, ma è anche un film che intrattiene, che diverte, e anche questo è un segreto del film, questo dell'uso dell'animazione, il regista lo riconosce. E tra l'altro qui c'è un interessantissimo uso di bit of animation, perché animation come information non si può usare al plurale, non si può dire le animazioni, animations, così come non si può dire informations nel senso tante informazioni, bisognerebbe dire, per essere corretti, a piece of information o a piece of animation, oppure lui qui dice bit of animation, bit of information. Quindi, se volete, anche qua diciamo sempre quelle piccole cose che fanno capire se traducete così un po' giusto per assonanza, oppure se sapete quelle regoline che fanno di voi degli inglesi provetti. E qui appunto ricordatevi piece of animation, bit of animation o piece of information. Direi di più a cool bit in questo caso. Cool bit of animation for entertainment. Per alleggerire probabilmente appunto questo tema che è un tough subject, come ha detto il nostro 21enne all'inizio. Speriamo davvero che si possa vedere presto questo film in Italia, questo Death of a Superhero, perché speriamo di avervi incuriosito. Il tema è molto delicato, ma il film sa essere anche leggero nell'accezione positiva di questo aggettivo. Per il nostro English 24 di stasera abbiamo concluso. Devo ringraziare Roberto Scaltritti in regia, ricordarvi l'appuntamento in edicola con English 24, ma anche tutti i nostri social network. Andateci a cercare ad esempio su Facebook. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.